senti nel tuo cuor. Ti dirò in settembre quel che sento nel mio cuor. C'è nell'aria la musica dei baci dell'estate che lenta se ne va. C'è qualcosa che veramente piace in settembre, come bello sogna. Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmelo in settembre quel che senti nel tuo cuor. Quando bocca a bocca ci ritroveremo ancora. Questo è il mese che porterà fortuna, questo è il mese della felicità. Né dicembre, né gennaio, né febbraio, no, no, no. In settembre dimmi sempre t'amerò. Dell'estate che lenta se ne va. C'è qualcosa che veramente piace in settembre, come bella sogna. Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmelo in settembre quel che senti nel tuo cuor. Quando bocca a bocca ci ritroveremo ancora. Questo è il mese che porterà fortuna, questo è il mese della felicità. Né dicembre, né gennaio, né febbraio,